per poi scaldarsi di nuovo davanti a un fuoco che brucia il silenzio dentro di te. Ed in un preciso istante ho dato un senso al mio sconforto. Non posso guardarmi allo specchio e sputarmi in faccia ogni santo giorno. A volte ho creduto, sentito, saputo di avere sbagliato tutto. Ma quello che è stato e non esiste un solo giusto. Almeno spero, e anche se potessi, e non credo vorrei saper come cambiare quel che è il mio destino. Ho scelto di vedere e di sentire quel che basta per me. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo stasera Fabio dei Seed & Feed. Con voi e con Fabio ascolteremo 6 brani del CD Una lunga notte, come il primo che è andato in onda, titolo? Cambierò. La vostra esperienza durante la registrazione e quali sono le linee guida che hanno tracciato questo vostro nuovo disco in virtù del fatto che è già il quinto disco che fate? Sì, guarda, allora l'esperienza per quest'ultimo disco è stata totalmente diversa rispetto a quelle precedenti, perché abbiamo inciso, a parte le batterie, tutto il resto degli strumenti e le voci per conto nostro nella nostra sala prove, e quindi è stata una novità anche per noi. E una cosa che tengo a dire è che ci siamo avvalsi poco della tecnologia, nel senso che abbiamo scelto di fare pochissimi interventi di editing per eliminare le imperfezioni, proprio perché volevamo avere un po' più di feeling umano, ecco, volevamo che uscisse un po' più di feeling. Infatti così è stato. Non sarà un disco super patinato e perfettino, però va, suona più così. Esatto, naturale. Infatti penso che ci rappresenti al 100% proprio per questo motivo. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Una lunga notte. Siamo sempre con Fabio dei Sidden Feed, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato. Allora sì, le recensioni uscite per il momento sono tutte molto positive, sono piaciute molto e soprattutto quella uscita per il Tirreno da Luca Faggella è stata molto bella, dove appunto lui a un certo punto dice che Una lunga notte è forse uno dei migliori dischi prodotti in Italia in questi ultimi anni, che ci fa positivo. Sì, direi proprio di sì. E poi ne sono uscite altre, tipo su Rock Rebel Magazine, dove Margherita Simonetti definisce questo disco, cioè, un lavoro pregevolmente elegante, ben arrangiato, e poi addirittura a un certo punto dice che 10 tracce su 14 possono essere paragonate a pietre preziose tanto brillanti e affascinanti, quindi direi che non male. Sono... Esatto. Poi niente, ci tenevo a dire che sul numero di febbraio di Rock and Rilla uscirà una bella intervista, e quindi per chi fosse interessato a conoscere meglio la band, insomma, consiglio di acquistare il numero di febbraio, insomma. Prossima canzone? Allora, prossima canzone, Messico. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con Fabio dei Sidden Feed. Interminabili stagioni.